548. Oca domestica. L'oca era già domestica ai tempi di Omero e i romani, 388 anni avanti Cristo, la tenevano in Campidoglio come animale sacro a Giunone. L'oca domestica, in confronto delle specie selvatiche, è cresciuta in volume, si è resa più feconda e pingue in modo da sostituire il maiale presso gli israeliti. Come cibo io non l'ho molto in pratica, perché sul mercato di Firenze non è in vendita e in Toscana poco o punto si usa la sua carne. Ma l'ho mangiata all'esso e mi piacque. Da essa sola si otterrebbe un brodo troppo dolce, ma mista al manzo contribuisce a renderlo migliore se ben digrassato. Mi dicono che in umido e arrosto si può trattare come l'anatra domestica e che il petto in gratella si usa a steccarlo col prosciutto o con le acciughe salate, per chi si fa un divieto di quello, e condito con olio, pepe e sale. In Germania si cuoce arrosto ripiena di mele, vivanda codesta non confacente per noi italiani, che non possiamo troppo scherzare coi cibi grassi e pesanti allo stomaco, come rileverete dal seguente aneddoto. Un mio contadino, uso solennizzare la festa di Sant'Antonio Abate, volle un anno, meglio del consueto, riconoscerla con l'imbandire un buon desinare a suoi amici, non escludendo il fattore. Tutto andò bene perché le cose furono fatte a dovere, ma un contadino benestante, che era degli invitati, sentendosi il cuore allargato perché al bere e al mangiare aveva fatto del meglio suo, disse ai commensali: «Per San Giuseppe, che è il titolare della mia parrocchia, vi voglio tutti a casa mia, e in quel giorno sa da stare allegri». Fu accettato volentieri l'invito e nessuno mancò al convegno. Giunta l'ora più desiderata per tali feste, che è quella di sedersi a tavola, cominciò il bello, peroché si diede principio col brodo che era d'oca. Il fritto era d'oca, il lesso era d'oca, l'umido era d'oca, il arrosto di che credete che fosse? Era d'oca! Non so quel che avvenisse degli altri, ma il fattore verso sera cominciò a sentirsi qualche cosa in corpo che non gli permetteva di cenare, e la notte gli scoppiò dentro un uragano tale di tuoni, vento, acqua e gragnuola che, ad averlo visto il giorno appresso, così sconfitto e abbattuto di spirito, faceva dubitare non fosse divenuto anch'esso un'oca. Sono rinomati i pasticci di Strasburgo di fegato d'oca, reso voluminoso mediante un trattamento speciale lungo e crudele inflitto a queste povere bestie. A proposito di fegato d'oca, me ne fu regalato uno proveniente dal Veneto che col suo abbondante grasso attaccato pesava grammi 600, il cuore compreso, e seguendo l'istruzione ricevuta lo cucinai semplicemente in questa maniera. Prima mise al fuoco il grasso, tagliato all'ingrosso, poi il cuore a spicchi e per ultimo il fegato a grosse fette. Condimento, sale e pepe soltanto, servito in tavola, scolato dal soverchio unto con spicchi di limone. Bisogna convenire che è un boccone molto delicato. Vedi fegato d'oca numero 274.